Capitolo 24. La piccola cena di Mrs. Gibson. Tutto ciò si era verificato prima che Roger incontrasse moglie e Cinzia a casa delle signorine Browning e prima della piccola cena del venerdì da Mr. Gibson che ne conseguì. L'intenzione di Mrs. Gibson era che gli Hamley trovassero l'occasione piacevole e così fu. Mr. Gibson era affezionato ai due giovani, sia per il rispetto che nutriva per i loro genitori, sia perché li apprezzava personalmente, conoscendoli sin da quando erano ragazzini. E con coloro che gradiva, Mr. Gibson sapeva essere decisamente piacevole. Mrs. Gibson diede loro un caloroso benvenuto e la cordialità in una padrona di casa è una coperta molto appropriata per altre eventuali mancanze. Cinzia e Molly sfoggiavano il loro aspetto migliore e questo era l'unico dovere che Mrs. Gibson esigeva da loro, perché era del tutto intenzionata a gestire la conversazione. Osborne cedette alla sua volontà, naturalmente, e per un certo periodo i due continuarono a chiacchierare con tutta la facilità dei modi e la banalità degli argomenti che contribuiscono di gran lunga a creare l'arte della conversazione garbata. Roger, che avrebbe dovuto rendersi gradito all'una o all'altra delle due signorine, era estremamente interessato a ciò che Mr. Gibson gli stava raccontando a proposito di un articolo di osteologia comparata, pubblicato in una certa rivista scientifica straniera che Lord Hollingford era solito prestare al suo amico, medico di campagna. Eppure, di tanto in tanto, mentre ascoltava, la sua attenzione si spostava sul viso di Cinzia, seduta fra il fratello e Mr. Gibson. Lei non era particolarmente occupata a badare ciò che stava accadendo. Sbriciolava il pane sulla tovaglia con le palpebre abbassate e distratte e le sue lunghe belle ciglia risaltavano sulla sfumatura chiara della rotondità della sua guancia. Stava pensando ad altro e Molly stava tentando di capire con tutte le sue forze di cosa si trattasse. D'un tratto Cinzia alzò gli occhi e colse troppo vivamente lo sguardo colmo di ammirazione di Roger per non accorgersi che lui la stava fissando. Arrossì un poco, ma dopo il primo momento di rosata timidezza per questa palese dimostrazione di apprezzamento, passò lei all'attacco, veicolando l'imbarazzo che lui provava per essere stato scoperto in un'autodifesa delle sue accuse. «È verissimo», gli disse. «Non stavo ascoltando, vedete, io non conosco neanche l'ABC in campo scientifico. Ma vi prego, non guardatemi così severamente, anche se sono un'oca». «Non sapevo, non intendevo assolutamente guardarvi con severità», replicò il giovane che non sapeva bene cosa dire. «Cinzia non è un'oca», intervenne Mrs. Gibson, timorosa che l'opinione che la figlia aveva espresso su se stessa fosse presa sul serio. «Ma ho sempre notato che alcune persone hanno talento per una cosa, altre per un'altra. Ora, i talenti di Cinzia non riguardano le scienze né gli studi più rigorosi. Ti ricordi, amor mio, quanta difficoltà ho avuto per insegnarti a fare i globi? Sì, e anche oggi non distingo la longitudine dall'altitudine e sono sempre perplessa sul perpendicolare e l'orizzontale. Eppure, posso assicurare», continuò la madre rivolgendosi in particolare a Osborne, «che la sua memoria per la poesia è prodigiosa. L'ho sentita ripetere Prigioniero di Chillon dal principio alla fine». «Deve essere stato piuttosto noioso doverla ascoltare, direi», fece Mr. Gibson sorridendo a Cinzia, che gli rivolse in cambio una delle sue luminose occhiate di complicità. «Ah, Mr. Gibson, lo so da prima di adesso che non avete anima per la poesia, e Molly qui è proprio figlia vostra. Legge libri così seri, tutti numeri e definizioni. Un po' alla volta diventerà una blue stocking». «Mamma», protestò Molly arrossendo, «voi credete che fosse un libro serio perché mostrava la forma delle diverse cellette delle api? Ma non era difficile, era molto interessante». «Non importa, Molly», intervenne Osborne, «io parteggio per le blue stocking». «E io contesto la distinzione insita in ciò che dite», interloquì Roger. «Non era difficile, ergo era molto interessante». «Ora, un libro può essere sia difficile che interessante. O se avete intenzione di cavillare, di usare parole latine, penso sia ora che noi vi lasciamo», disse Mrs. Gibson. «Non dobbiamo scappare come se fossimo state picchiate, mamma», obiettò Cinzia. «Anche se è logica, io per una volta ho capito ciò che Mr. Roger Hamley ha appena detto e ho letto una parte del libro di Molly. E che fosse difficile o no, io l'ho trovato molto interessante, più di quanto oggi reputerei il prigioniero di Chillon». Ho congedato il prigioniero e la mia opera poetica preferita adesso è Johnny Gilpin. Come puoi dire certe assurdità, Cinzia? La rimproverò la madre, mentre le ragazze la seguivano di sopra. Tu sai di non essere una sciocca. È un'ottima cosa non essere una blue stocking, perché alla gente raffinata non piace quel genere di donna. Ma svilirti così e contraddire tutto ciò che ho affermato in merito alla tua preferenza per Byron, i poeti e la poesia, e fra tutti, proprio davanti a Osborne, Hamley. Mrs. Gibson parlò molto bruscamente per le sue abitudini. Ma mamma, replicò Cinzia, o sono un'oca o non lo sono. Se lo sono, ho fatto bene a riconoscerlo. Se non lo sono, è lui lo scemo, se non ha capito che stavo scherzando. Beh, fece Mrs. Gibson un po' confusa da questo ragionamento e chiedendo un'ulteriore spiegazione. Voglio solo dire che se lui è uno sciocco, l'opinione che ha di me non conta niente, perciò comunque non ha alcun significato. Mi lasci veramente esterrefatta con questa assurdità, figliola. Molly vale 20 volte te. Sono assolutamente d'accordo, mamma, approvò Cinzia, voltandosi per prendere la mano di Molly. Sì, ma non dovrebbe essere così, protestò Mrs. Gibson ancora irritata. Pensa ai vantaggi che hai avuto tu. Temo che preferirei essere un'oca piuttosto che una blue stocking, affermò Molly. La parola infatti l'aveva infastidita un po' e quell'offesa bruciava ancora. Shh! Ecco che arrivano. Sento la porta della sala da pranzo. Cara, non ho mai avuto intenzione di definirti una blue stocking, dunque non fare quella faccia. Cinzia, amor mio. Dove hai preso quei bei fiori? Sono anemoni, vero? Stanno benissimo con la tua carnagione. Andiamo, Molly, non sembrare così seria e pensierosa, esclamò Cinzia. Non vedi che la mamma ci vuole sorridenti e amabili? Mr. Gibson era dovuto uscire per il suo giro di visite serale e i due giovani erano fin troppo lieti di salire nel salottino, il piccolo fuoco vivace, le poltroncine comode che con una compagnia così ristretta potevano essere radunate intorno al camino. La padrona di casa così gioviale, le ragazze gradevoli e graziose. Roger si avvicinò ciondolando all'angolo dove si trovava Cinzia, che giocava con un ventaglio. Ci sarà presto un ballo di beneficenza a Hollingford, vero? Le chiese. Sì, il martedì di Pasqua, rispose lei. Ci andrete? Immagino di sì. Sì, mamma ci porterà, moglie e me. Vi divertirete moltissimo ad andarci insieme. Per la prima volta durante quel breve dialogo la ragazza alzò gli occhi su di lui e un vero, onesto piacere brillò nel suo sguardo. Sì, andarci insieme sarà la cosa veramente divertente. Sarebbe noioso senza di lei. Siete dunque grandi amiche? Domandò lui. Non ho mai creduto che qualcuno mi sarebbe piaciuto così tanto. Una ragazza, voglio dire. Ella aggiunse quell'ultima precisazione per pura semplicità di cuore e con tutta semplicità egli la comprese. Lei si avvicinò leggerissimamente e abbassò un po' con la voce. Ero ansioso di saperlo. Sono tanto felice. Mi sono chiesto spesso se andaste d'accordo. Davvero? Chiese lei, alzando di nuovo gli occhi. A Cambridge dovete proprio essere affezionato a Molly. Sì, è vero. È stata a lungo con noi e in un momento simile la considero quasi una sorella. E lei vuole molto bene a tutti voi. Mi sembra di conoscervi per quanto l'ho sentita parlare di voi, di tutti voi, precisò, sottolineando tutti per specificare che intendeva tanto i morti quanto i vivi. Roger tacque per un minuto o due. Io non vi conosco neanche per sentito dire, dunque non vi dovete stupire se ero un po' spaventato, ma non appena vi ho vista ho capito come doveva essere ed è stato un tale sollievo. Cinzia! Chiamò Mrs. Gibson, ritenendo che il fratello minore avesse avuto la sua buona parte di conversazione confidenziale a bassa voce. Vieni qua, canta Mr. Osborne Hamley quella breve ballata francese. A quale intendi, mamma? Tu ne repentirai, Colin? Sì, un grazioso e giocoso piccolo avvertimento per i giovanotti, commentò Mrs. Gibson, sorridendo a Osborne. E il ritornello dice: Tu te repentirai, Colin? Tu te repentiras, car si tu prends d'enfant Colin, tu te repentiras. Questo consiglio può andare molto bene se c'è di mezzo una moglie francese, ma non di certo nel caso di un inglese che stia pensando a una moglie dei paesi suoi. La canzone scelta cadeva estremamente a sproposito, se solo Mrs. Gibson ne fosse stata a conoscenza. Osborne e Roger, che sapevano che il primo aveva sposato una francese e che erano coscienti della consapevolezza dell'altro, si sentirono doppiamente in imbarazzo, mentre Molly era nel pieno della confusione, come se lei stessa si fosse sposata in segreto. In ogni caso, Cinzia eseguì allegramente la salace canzoncina e la madre sorrise, totalmente ignorante delle allusioni che essa potesse avere. Osborne si era istintivamente avvicinato a Cinzia, come per girare le pagine dello spartito, se richiesto. Tenne le mani in tasca e gli occhi fissi sulle dita della giovane. Il suo volto si oscurò e si incupì mentre lei cantava gioiosamente quelle gaie battute. Anche Roger appariva serio, ma era molto più a suo agio del fratello. Anzi, era quasi divertito da quella situazione imbarazzante. Notò il colore accentuato e lo sguardo preoccupato di Molly e si accorse che lei stava soffrendo per quel contrattempo più del necessario. Si avvicinò a una sedia accanto a lei e quasi bisbigliò. Un avvertimento tardivo, eh? Molly lo guardò mentre si chinava verso di lei e replicò con lo stesso tono: Oh, mi dispiace tanto. Non dovete. Non ci starà a male a lungo e un uomo deve affrontare le conseguenze quando si mette in un pasticcio. Molly non seppe come rispondere, così vergognosa tacque. Si avvide però che Roger non aveva cambiato posizione, né aveva sposato la mano della spalliera della sedia, e curiosa di scoprire la causa di quell'immobilità, alzò finalmente gli occhi su di lui e vide che il suo sguardo era puntato sui due vicini al pianoforte. Osborne stava parlando con entusiasmo a Cinzia, e quegli occhi gravi erano rivolti su di lui con una dolce intensità d'espressione. La sua bocca era socchiusa, quasi impaziente che lui smettesse di parlare per poter replicare. Stanno parlando della Francia, osservò Roger, in risposta alla domanda che Molly non aveva pronunciato. Osborne la conosce bene e Miss Kirkpatrick è stata lì a scuola. Sembra molto interessante. Ci avviciniamo a sentire cosa dicono? Fu molto bello che facesse questa domanda con tanta cortesia, ma Molly pensò che sarebbe stato meglio se avesse aspettato una risposta. Invece di attendere, Roger si avvicinò al piano, vi si appoggiò e sembrò prendere parte alla lieve e gioiosa chiacchierata mentre i suoi occhi si beavano per quanto osava guardarla di Cinzia. Molly sentì all'improvviso di riuscire a stento a impedirsi di piangere. Un minuto prima lui le era stato così vicino e le aveva parlato con piacere e confidenza, e ora sembrava quasi aver dimenticato la sua esistenza. Pensò che era tutto sbagliato ed esagerò i propri torti. Meschina, invidiosa di Cinzia, bisbetica ed egoista furono le definizioni che continuò ad attribuire a se stessa. Ma ciò non ebbe alcun effetto positivo. Lei rimaneva ugualmente cattiva. Mrs. Gibson si intromise in uno stato delle cose che Molly pensava sarebbe durato per l'eternità. Fino a quel momento il suo cucito era stato difficile e aveva richiesto molti conteggi. Perciò lei non aveva avuto modo di attendere ai propri doveri. Uno dei quali era sempre quello di mostrarsi al mondo a quale matrigna imparziale. Cinzia aveva suonato e cantato e ora lei doveva offrire a Molly il turno di esibirsi. L'esecuzione di Cinzia era stata lieve e aggraziata, ma certo non corretta. Però lei era così affascinante che solo i fanatici di musica si sarebbero curati degli accordi sbagliati e delle note saltate. Molly, al contrario, era dotata di un orecchio eccellente se solo avesse ricevuto delle lezioni, e sia per inclinazione che per coscienziosa perseveranza di carattere, ella era solita ripetere anche per 20 volte un passaggio che non le riusciva. Ma era molto timida, restia a suonare per gli altri e, quando costretta, la sua esecuzione risultava pedante e odiosa a lei più che a chiunque altro. Adesso devi suonare un po' tu, Molly, decise Mrs. Gibson. Suonaci quel bel pezzo di Kalkbrenner, mia cara. Molly guardò la matrigna con occhi imploranti, ma questo trasformò solo la richiesta in un ordine. Vai subito, cara. Forse non la suonerai del tutto correttamente e lo so che sei molto nervosa, ma sei fra amici. Così il gruppetto riunito al piano dovette disperdersi e Molly prese posto per il martirio. Per favore, allontanatevi. Chiese Osborne, che stava in piedi dietro di lei per girare le pagine. Posso fare benissimo da sola e, oh, se solo poteste chiacchierare. Osborne rimase dove si trovava a dispetto della sua richiesta e fu lui a esprimere la rada approvazione che Molly ricevette. Mrs. Gibson, infatti, esausta dal precedente onere di contare i punti, si addormentò nel comodo divano presso il fuoco e Roger, che all'inizio aveva cominciato a parlare un po' per accontentare Molly, trovò il tête-à-tête con Cinzia così gradevole che Molly perse il filo diverse volte nel tentativo di lanciare una rapida occhiata alla giovane intenta sul cucito e a Roger che le stava accanto, cercando di cogliere le risposte a bassa voce che lei pronunciava a proposito di quanto le veniva detto. Ecco, ho finito, esclamò Molly, alzandosi subito dopo aver finito le tetre 18 pagine, e credo che non suonerò mai più. Osborne rise della sua veemenza. Cinzia iniziò a partecipare un po' alla conversazione, rendendola generale. Mrs. Gibson si svegliò con grazia, così come faceva ogni cosa, ed entrò con tale facilità negli argomenti di cui stavano discutendo che quasi riuscì a far credere loro di non aver dormito affatto. Capitolo 25. Hollingford in fermento. Quell'anno tutta Hollingford sapeva che c'era molto da fare prima che arrivasse la Pasqua. C'era la domenica solenne vera e propria che richiedeva sempre un qualche abito nuovo, per timore delle conseguenze dovute a certi uccellini che si supponeva avrebbero preso come un'offesa l'impietà di coloro che quel giorno non portavano qualcosa di mai indossato prima. E la maggior parte delle signore riteneva più saggio che quegli uccellini vedessero con i loro occhi questa cosuccia nuova, invece di credere alla sua esistenza sulla fiducia, come avrebbero dovuto fare se si fosse trattato semplicemente di un fazzoletto da tasca, di una sottoveste o di altra biancheria. Il rispetto per la religione richiedeva un cappellino e un vestito nuovi e difficilmente si accontentava di un paio di guanti. A Hollingford, Miss Rose era generalmente molto occupata a ridosso della Pasqua. Inoltre quell'anno c'era il ballo di beneficenza. Ashcombe, Hollingford e Coreham erano tre cittadine vicine, con simile numero di abitanti, che si trovavano ai tre vertici equidistanti di un triangolo. Su imitazione dei festival delle grandi città, quei tre villaggi avevano concordato di organizzare un ballo annuale per raccogliere proventi destinati all'ospedale della contea. E l'evento doveva essere ospitato a turno da una delle tre cittadine. Quell'anno toccava a Hollingford. Era un periodo perfetto per l'ospitalità. Ogni casa di una certa pretesa era piena all'inverosimile e i calessi erano stati prenotati molti mesi prima. Se Mrs. Gibson avesse invitato Osborne o, in caso di un suo rifiuto, Roger Hamley ad accompagnarla al ballo e poi a dormire a casa loro, o se insomma avesse potuto scegliere un qualunque rampollo di una famiglia altolocata a cui una simile offerta fosse suonata opportuna, ella avrebbe restituito volentieri al proprio spogliatoio la funzione originale di camera degli ospiti. Ma ella non ritenne che valesse la pena fare questo sacrificio a beneficio di una donna tediosa e malvestita che era stata sua amica d'Ashcombe. Avrebbe potuto cedere quella stanza per Mr. Preston, esaminandolo alla luce del suo essere un giovanotto bello e benestante e oltretutto un bravo ballerino. C'erano però altre luci sotto le quali bisognava prenderlo in considerazione. Mr. Gibson, che desiderava veramente restituire l'ospitalità dimostrata da Mr. Preston al tempo delle nozze, provava nei suoi confronti un istintivo disgusto, che né la volontà di liberarsi dal debito né il più intenso sentimento di ospitalità riuscivano a superare. La stessa Mrs. Gibson covava nei confronti di Mr. Preston certi antichi rancori, ma non era tipo da conservare emozioni rabbiose o da mettere in atto rappresaglie. Di lui aveva paura e allo stesso tempo lo ammirava. Inoltre, era imbarazzante, così disse, entrare in una sala da ballo senza alcun gentiluomo al fianco e la presenza di Mr. Gibson era talmente incerta. Tutto sommato, in parte per quest'ultima ragione, in parte perché la riconciliazione era la migliore politica, Mrs. Gibson propendeva per l'invitare Mr. Preston a essere loro ospite. Ma non appena Cinzia venne a conoscenza del progetto in discussione, o meglio, non appena ne sentì parlare in assenza di Mr. Gibson, affermò che se Mr. Preston fosse stata loro ospite in quell'occasione, lei al ballo non ci sarebbe proprio andata. Non parlò con ardore o con indignazione, ma con una determinazione così placida che Molly alzò gli occhi sorpresa. Vide che Cinzia teneva lo sguardo fisso sul proprio lavoro e che non aveva intenzione di incontrare le occhiate di nessuno o di dare ulteriori spiegazioni. Anche Mrs. Gibson apparve perplessa e una o due volte sembrò sul punto di fare qualche domanda, ma non era arrabbiata, come Molly si era aspettata con sicurezza. La madre guardò Cinzia furtivamente e in silenzio per un paio di minuti e poi disse che dopo tutto non poteva rinunciare comodamente al proprio spogliatoio. Insomma, era meglio non parlarne più. Così, nei giorni del ballo, nessun estraneo fu invitato a soggiornare a casa di Mr. Gibson, ma Mrs. Gibson espresse apertamente il dispiacere per quell'inevitabile inospitalità e sperò di poter essere in grado di ampliare la casa prima del prossimo ballo di Hollingford, 3 anni dopo. Un'altra causa di inusuale fermento quella Pasqua a Hollingford era l'atteso ritorno della famiglia delle Torri, dopo un'assenza insolitamente lunga. Si vedeva Mr. Sheepshanks trottare su e giù sulla sua bestia vecchia e robusta e parlare con attenti muratori, stuccatori e vetrai per riparare ogni cosa, almeno all'esterno, dei cottage che appartenevano a Milord. Lord Kemnor possedeva gran parte della città e coloro che vivevano su terreni altrui o in case di proprietà erano incitati a risistemare le loro dimore per timore del paragone. Così le scale degli imbianchini e dei pittori capitavano inopportunamente tra i piedi delle signore che saltellavano in giro con grazia per i loro acquisti e che tenevano gli abiti raccolti con un fiocco all'indietro, come dettava una moda oggi completamente dimenticata. Anche la governante e il capocameriere delle torri si potevano incontrare nelle varie botteghe, impegnati a fare ordinazioni, e li si vedeva fermi qui e là, in quelle gestite dai loro favoriti, per approfittare di rinfreschi offerti con estremo zelo. Lady Harriet venne a far visita alla sua vecchia istitutrice il giorno successivo al ritorno della famiglia alle torri. Quando arrivò, moglie e Cinzia erano fuori a passeggio, svolgevano delle commissioni per Mrs. Gibson, che aveva la segreta idea che Lady Harriet sarebbe passata esattamente all'ora in cui si presentò e nutriva un insolito desiderio di parlare con sua signoria senza la presenza limitante di un qualunque altro membro della propria famiglia. Mrs. Gibson non diede a Molly il messaggio di ricordo che Lady Harriet aveva lasciato per lei, ma distribuì diverse notizie inerenti alle torri con grande animazione e interesse. La duchessa di Menteith e sua figlia, Lady Alice, stavano per arrivare in visita. Sarebbero state lì il giorno del ballo, sarebbero venute al ballo e i diamanti dei Menteith erano celebri. Questa fu la notizia numero 1. La seconda fu che alle torri stavano per giungere numerosissimi gentiluomini, alcuni inglesi, alcuni francesi. Questa informazione sarebbe stata la prima in ordine di importanza, se avesse implicato una forte probabilità che costoro danzassero e, come tale, potessero fare da compagni al ballo ormai vicino. Ma Lady Harriet li aveva classificati come amici di Lord Hollingford, quasi sicuramente inutili scienziati. Infine, Mrs. Gibson era stata invitata a pranzare alle torri il giorno successivo. Lady Kemner aveva fatto scrivere a Lady Harriet un messaggio che la pregava di raggiungerla, se Mrs. Gibson avesse trovato il modo di arrivare alle torri. Una delle loro carrozze l'avrebbe ricondotta a casa nel corso del pomeriggio. «La cara contessa!» esclamò Mrs. Gibson con tenero affetto. Era un soliloquio pronunciato dopo un minuto di pausa, alla fine di quell'elenco di notizie. E per tutto il resto di quel giorno, la sua conversazione mantenne una sorta di aura aristocratica. Uno dei pochi libri che le aveva portato con sé nella casa di Mr. Gibson era rilegato in rosa, e lì ella studiò la voce Menteith, duca di Adolphus Georg, eccetera, eccetera. Finché fu pienamente informata a proposito di tutte le connessioni e i probabili interessi della duchessa. Tornato a casa quella sera, Mr. Gibson fece una buffa smorfia con la bocca, quasi un fischio, ritrovandosi nel pieno di un'atmosfera ispirata a quella delle torri. Oltre a quella comicità, Molly intravide l'irritazione. La ragazza aveva iniziato a notarla con maggiore frequenza di quanto lei piacesse. Non ci ragionava su né ripercorreva le ragioni di quella stizza, ma non poteva evitare di sentirsi a disagio quando sapeva che il padre era anche solo un po' seccato. Ovviamente per Mrs. Gibson fu ordinato un calesse. La donna rientrò a casa nel primo pomeriggio. Se dall'incontro con la contessa era rimasta delusa, non lo rivelò. Ne riportò il fatto che appena arrivata alle torri aveva dovuto aspettare per un'ora nel salotto di Re di Kemnor, senza alcuna compagnia a confortarla se non quella della sua vecchia amica, Mrs. Bradley, fino a che improvvisamente Lady Harriet era entrata esclamando: «Insomma, Claire, carissima, siete qui tutta sola? La mamma lo sa?» Dopo una breve conversazione più affettuosa, ella era corsa a cercare sua signoria, che era perfettamente al corrente della presenza dell'ospite, ma era troppo presa a impartire alla duchessa i benefici della propria saggezza e della propria esperienza in fatto di corredi, per rendersi conto della quantità di tempo che Mrs. Gibson stava trascorrendo in paziente solitudine. A pranzo, Mrs. Gibson rimase segretamente offesa dal fatto che Milord supponesse che per lei quella fosse la cena e urlasse la propria ospitale premura dall'altro capo del tavolo, adducendo come ragione che lei doveva tenere a mente che quella era la cena. Invano ella dichiarò con voce acuta, alta e dolce: «Ah, oh, Milord, io non mangio mai a metà giornata e riesco appena a prendere qualcosa per pranzo». Le sue parole si smarrirono e la duchessa se ne sarebbe andata pensando che la moglie del dottore di Hollingford cenasse prestissimo, ammesso che Sua Grazia si abbassasse a concepire un pensiero sull'argomento, il che presupporrebbe che ella fosse a conoscenza dell'esistenza di un medico a Hollingford, che costui fosse sposato e che sua moglie fosse proprio l'elegante signora graziosa e sfiorita che mandava via i piatti senza toccare cibo. Un cibo che invece desiderava mangiare, perché dopo il tragitto e la solitudine era disperatamente affamata. E poi, dopo pranzo, arrivò finalmente il tête-à-tête con Lady Kemnor, che fu introdotto da un saggio. «Bene, Claire, sono veramente contenta di vedervi. Una volta ho pensato che non sarei più tornata alle torri, ma eccomi qua!» C'era un uomo così abile a Bath, un certo dottor Snape. Lui mi ha curata finalmente, mi ha proprio rimessa in sesto. Penso seriamente che se mi ammalerò di nuovo lo manderò a chiamare. È una tale gioia aver trovato un medico davvero capace. Oh, a proposito, mi dimentico sempre che avete sposato un Mr. Gibson. Naturalmente lui è molto intelligente e tutto. Brown, la carrozza qui fra 10 minuti e voglio che Bradley porti giù le mie cose. Cosa vi stavo chiedendo? Ah, come va con la figliastra? Mi è sembrata una signorina con una certa cocciuta volontà. Ho appoggiato da qualche parte una lettera per la posta e non so dove. Aiutatemi a cercarla, brava donna. Andate di corsa in camera mia e vedete se Brown la trova, perché è molto importante. Mrs. Gibson uscì piuttosto malvolentieri, perché c'erano diverse cose delle quali desiderava parlare e non aveva sentito neanche la metà di ciò che si era aspettata di sapere sui pettegolezzi di famiglia. Ma l'occasione era passata, quando infatti rientrò dalla sua infruttuosa missione, Lady Kemnor e la duchessa stavano chiacchierando animatamente e Lady Kemnor aveva in mano quella lettera e la usava come una sorta di bacchetta per fare enfasi alle proprie parole. Ogni iota da Parigi. Ogni iota. Lady Kemnor era troppo signorile per non scusarsi di aver arrecato un disturbo inutile, ma quelle furono praticamente le ultime parole che rivolse a Mrs. Gibson perché doveva uscire in carrozza con la duchessa e il brougham che doveva riportare Claire, come insisteva a chiamarla, a Hollingford, aveva seguito la vettura alla porta. Lady Harriet si allontanò dal gruppo di giovanotti e signorine pronti per una passeggiata per salutare Mrs. Gibson. «Vi vedremo al ballo», disse. «Sarete lì con le ragazze, naturalmente, e io dovrò parlarvi. Con tutti questi ospiti in casa è stato impossibile vedervi oggi, capite?» Quelli erano i fatti, ma una volta rincasata Mrs. Gibson li riportò ai suoi ascoltatori attraverso un filtro di colore rosa. «Ci sono tanti visitatori alle torri. Oh, sì, tantissimi. La duchessa e Lady Alice, Mr. e Mrs. Grey, Lord Albert Monson e la sorella, e il mio vecchio amico, il capitano James dei Blues, e molti altri in verità. Ma ovviamente io ho preferito recarmi nella camera di Lady Kemnor, dove potevo vedere lei e Lady Harriet in tranquillità e dove non siamo state disturbate dal trambusto del piano di sotto. Ovviamente siamo state costrette a scendere per pranzo e lì ho incontrato i miei vecchi amici e ho rinnovato piacevoli conoscenze. Ma veramente non sono quasi riuscita a fare conversazione con nessuno. Lord Kemnor sembrava così deliziato di vedermi di nuovo lì, anche se c'erano 6 o 7 persone sedute fra noi. Continuava a interrompere la conversazione con parole garbate e gentili indirizzate specialmente a me. E dopo pranzo Lady Kemnor mi ha fatto un mucchio di domande sulla mia nuova vita, con tutto l'interesse che avrebbe avuto se fossi stata sua figlia. Ovviamente, quando è arrivata la duchessa, abbiamo dovuto lasciar perdere parlare del corredo che ella sta preparando per Lady Alice. Lady Harriet ha insistito che dobbiamo incontrarci al ballo. È una creatura così buona e affezionata, Lady Harriet. Quest'ultima frase fu pronunciata in tono di meditabondo apprezzamento. Il pomeriggio del giorno del ballo, un servitore arrivò da Hamley con due adorabili mazzolini di fiori e i complimenti dei signori Hamley per Miss Gibson e Miss Kirkpatrick. Cinzia fu la prima a riceverli. Entrò in salotto a passo di danza, facendo svolazzare i fiori in entrambe le mani e ballando si avvicinò a Molly, che stava tentando di trascorrere leggendo il tempo che mancava a che scendesse la sera. Guarda, Molly, guarda! Ecco due bouquet per noi. Lunga vita che ce li dona! Di chi sono? Chiese Molly prendendone uno ed esaminandone la bellezza con tenera delizia. Di chi? Ma come? Di quei due modelli di perfezione degli Hamley, ovviamente. Non è un dono molto bello? Che gentili, disse Molly. Sono sicura che è stato Osborne a pensarci. È stato all'estero così di frequente e lì mandare bouquet alle giovani donne è un complimento molto diffuso. Non vedo perché tu debba pensare che sia stata un'idea di Osborne, obiettò Molly arrossendo un poco. Mr. Roger Hamley era solito raccogliere costantemente mazzolini di fiori per la madre e qualche volta per me. Beh, non importa di chi è stata l'idea o di chi li ha raccolti, noi abbiamo i fiori ed è ciò che conta. Molly, sono sicura che questi rossi staranno benissimo con la tua collana e i tuoi braccialetti di corallo, suggerì Cinzia, sfilando alcune camelie che allora erano un fiore raro. Oh, ti prego, no! Esclamò Molly. Non vedi con quanta cura sono stati sistemati i colori? Ci si sono impegnati così tanto, ti prego, no! Sciocchezze, protestò Cinzia, continuando a sfilarli. Guarda, ce ne sono a sufficienza. Ti farò una coroncina, cucita con velluto nero, che così non si vedrà, proprio come si fa in Francia. Oh, mi dispiace così tanto. È tutto rovinato, si lamentò Molly. Non importa, prenderò io questo bouquet a pezzi, posso rimetterlo a posto e sarà più bello che mai. Tu invece avrai quell'altro che non è stato toccato. Cinzia continuò a disporre i boccioli, i cremisi e i fiori secondo il proprio gusto. Molly non disse nulla, ma rimase a guardare le sue dita agili che componevano la coroncina. Ecco, disse infine Cinzia, quando ci avremo cucito del velluto nero per impedire che i fiori avvizziscano, vedrai quanto sarà bella. E in questo mazzolino intatto ci sono abbastanza fiori rossi da richiamare l'idea. Grazie! Molto lentamente. Ma non ti dispiacerà portare solo il relitto dell'altro? No, i fiori rossi non starebbero bene con il mio abito rosa. Ma direi che hanno composto i mazzolini con vera cura. Forse sì, ma io non permetterei mai che i sentimenti interferissero con le mie scelte cromatiche. E il rosa è un colore difficilissimo da accostare. Ora tu, con la tua mussolina bianca appena punteggiata di cremisi come una margherita, puoi portare qualunque cosa. Cinzia si diede molta cura ad agghindare Molly e lasciò che l'abile cameriera si dedicasse esclusivamente alla madre. Mrs. Gibson era più ansiosa a proposito dell'abbigliamento di quanto non fossero le ragazze. Il pensiero le aveva procurato molte riflessioni e non pochi sospiri. Alla fine aveva deliberato di indossare l'abito nuziale di satin grigio perla, con una profusione di pizzo e lilla bianchi e colorati. Cinzia era quella che prendeva la faccenda con maggiore leggerezza. Molly considerava il rito del vestirsi per il proprio ballo una cerimonia molto seria, di certo una faccenda preoccupante. Cinzia era quasi nervosa per lei, solo che Molly voleva che il proprio aspetto risultasse corretto e passasse inosservato, e Cinzia desiderava invece far risaltare le sue qualità particolari: la sua pelle color crema, la massa di riccioli neri, i begli occhi dalla foggia allungata, come quella loro espressione modesta, con quella loro espressione modesta e amorevole. Aveva impiegato così tanto tempo a vestire Molly come aveva pianificato che dovette eseguire la propria toilette in tutta fretta. Molly, pronta, sedeva su una sedia bassa nella stanza dell'altra giovane e osservava i movimenti della bella creatura che stava di fronte allo specchio in sottoveste, intenta ad accorciarsi i capelli con la velocità di chi è sicuro del risultato finale. Alla fine emise un lungo sospiro e disse: Vorrei essere bella. Beh, Molly! Ribatté Cinzia, girandosi con un'esclamazione sulla punta della lingua, ma quando colse l'espressione triste e innocente sul volto dell'altra, represse distinto ciò che stava per dire e con un mezzo sorriso al proprio riflesso sullo specchio affermò: Le francesi ti direbbero che credere di essere bella ti farà diventare tale. Molly esitò prima di rispondere. Immagino intendono che se sai di essere bella non devi far pensare al tuo aspetto. Sei così certa di essere apprezzata ed è la preoccupazione. Senti, battono le 8. Non ti crucciare a interpretare un modo di dire delle ragazze in Francia, ma aiutami con questo vestito, carina che sei. Le due ragazze erano pronte e stavano davanti al fuoco della camera di Cinzia ad aspettare la carrozza quando Maria, che era succeduta a Betty, entrò di getto nella stanza. Ella aveva svolto le funzioni di cameriera personale per Mrs. Gibson, ma aveva avuto degli intervalli liberi in cui era corsa di sopra e, con il pretesto di offrire i propri servizi, aveva visto gli abiti delle signorine. Così lo spettacolo di tanti bei vestiti l'aveva portata a uno stato di eccitazione che le aveva fatto scordare di precipitarsi su per la 20ª volta, portando un mazzo di fiori ancor più bello dei due precedenti. Ecco, Miss Kirkpatrick, no, non è per voi, signoria. A Molly, che essendo più vicina alla porta, si era offerta di prenderlo e passarlo a Cinzia. È per Miss Kirkpatrick e c'è anche un biglietto. Cinzia non disse nulla, ma prese il biglietto e i fiori. Tenne il cartoncino in modo che Molly potesse leggere insieme a lei. Vi ho mandato dei fiori e dovete concedermi il primo ballo dopo le 9. Prima temo di non riuscire ad arrivare. R.P. Chi è? Chiese Molly. Cinzia appariva estremamente seccata, indignata, perplessa. Che cosa aveva fatto impallidire così le sue guance a vampare i suoi occhi? È Mr. Preston, disse in risposta. Non danzerò con lui ed ecco che fine fanno i suoi fiori. Nel bel mezzo dei tizzoni ardenti, con cui lei immediatamente ricoprì gli splendidi petali accartocciati, come se volesse annientarli il prima possibile. Non aveva mai alzato la voce, che era dolce come al solito, e i suoi movimenti, sebbene lesti, non erano violenti o impetuosi. Oh! Esclamò Molly. Quei bei fiori! Avremmo potuto metterli nell'acqua! No, dichiarò Cinzia, è meglio distruggerli. Non li vogliamo e non tollero ricordi di quell'uomo. Era un messaggio confidenziale e impertinente, osservò Molly. Che diritto aveva di esprimersi in quel modo, senza introduzione, senza chiusa, solo con le iniziali? Lo conoscevi bene quando ti trovavi ad Ashcombe, Cinzia? Non pensiamo più a lui, replicò l'altra. Il piacere del ballo sarà già abbastanza rovinato dall'idea che sarà lì. Ma spero di riuscire a impegnarmi prima che arrivi, così non potrò danzare con lui e neanche tu. Senti, ci chiamano! Esclamò Molly. E con passo svelto, eppure attento alle proprie vesti, le ragazze scesero da basso, dove Mr. e Mrs. Gibson le stavano aspettando. Sì, Mr. Gibson le avrebbe accompagnate, anche se si sarebbe dovuto presto assentare per obbedire a delle chiamate. E Molly, all'improvviso, vedendolo come era ora in abito da sera, si ritrovò ad ammirare l'avvenenza del padre. Anche Mrs. Gibson, com'era bella. In breve, la verità è che nessun gruppo più splendido di loro fece ingresso quella sera nella sala da ballo di Hollingford.